Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus. Bergamo è una delle aree più colpite al mondo, con una sieroprevalenza che supera di gran lunga le stime di metropoli come New York, Londra e Madrid. E quanto evidenzia uno studio dell'Istituto Mario Negri in pubblicazione su uno dei giornali del gruppo di Lancet, che abbiamo il piacere di commentare. Obiettivo Salute insieme alla dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche del Mario Negri. Siamo molto felici di questo studio, che ha visto protagonisti 423 soggetti che sono stati volontari, volontariamente si sono sottoposti al test nell'area di Bergamo e provincia. Abbiamo sottoposto a due test sierologici soggetti, un test rapido pungidito e un test da prelievo venoso e tampone nasofaringeo. Cosa abbiamo trovato? Beh, abbiamo trovato che più del 38% dei soggetti era positivo ad anticorpi, monoglobuline G, IgG, il che ha dimostrato un'altissima concentrazione di virus, molto più alta di almeno 30 volte di quella che era riportata ufficialmente. E questo potrebbe voler dire che si è creata una sorta di immunità naturale che stiamo studiando. Non sappiamo ancora quanto persistano questi anticorpi, probabilmente persistono di più in chi ha malattia più severa, e stiamo valutando per quanto tempo persistano e se ci proteggono per quanto. Il secondo risultato è che per la prima volta abbiamo paragonato due test in un gruppo così grande di soggetti. Sappiamo che i test rapidi non sono tutti uguali, ma quello che abbiamo testato ha dato risultati sovrapponibili, il test rapido, al test con prelievo venoso. E questo naturalmente ci dà una grande prospettiva, perché il test rapido si ottiene con un pungidito e quindi molto più facile da applicare. E infine la terza cosa che è importante è che questi soggetti, che sono stati studiati a maggio, quindi bisogna dire che erano alla fine della prima pandemia, avevano tamponi positivi solo in 23, ma quello che abbiamo visto è che la carica virale era nei tamponi era molto bassa, cioè i tamponi che erano messi in coltura con cellule non infettavano le cellule, che faceva pensare che i soggetti positivi avevano una carica infettiva anche molto bassa e quindi erano capaci di infettare molto poco. Dottoressa Benigni, quali indicazioni può dare questo studio per le politiche di contenimento che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà o dovrebbe mettere in atto per gestire questa nuova ondata? Sicuramente due sostanzialmente. La prima è che il test rapido può essere utilizzato come un sistema di sorveglianza, quindi per valutare la circolazione del virus, anche in questo momento in cui c'è una ripresa della curva epidemica. E il suggerimento è che è necessario qualificare i tamponi, cioè capire se i soggetti positivi al tampone, quelli che noi adesso chiamiamo nuovi contagi tutti i giorni, hanno una carica virale alta o bassa. Probabilmente molti in questo periodo ovviamente l'avranno alta, e infatti vediamo che i ricoveri anche aumentano, però la valutazione, la qualificazione del tampone è importante, lo si fa facilmente con un dato che tutti i laboratori possono dare e che si chiama CT in gergo, e la qualifica dei campioni permetterà anche di ottimizzare i criteri di dimissione dalla quarantena dei soggetti che sono infetti e quindi non paralizzare il paese. Grazie dottoressa Benigni per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.